www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio. Cioè, pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Sì. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich, che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli tutto procede lungo i consueti binari, Kappa e Drago parlano di sogni. Drago, dimmi. Stanotte ho sognato che mi cercavano per delle multe arretrate. Vabbè, ah, no? Novità. E poi c'erano delle poliziotte, tutte con un manganello, che mi inseguivano per i vicoli di Marsiglia. Mi sembra fosse Marsiglia. Ah, Marsiglia la conosci bene. Però poi di colpo ero nella fabbrica e vedevo te, Drago, ti vedevo vestito da poliziotta. Ma no, dai. Sì, che facevi col manganello una sfilata di moda. E poi insieme a te un esercito di transessuali, tutti vestiti come quelli dei Village People. Vabbè, ti accompagnavano sulla passerella. Certo che bel Village People sarei io. Poi arrivava Coco a un certo punto. Chi? Coco, il calciatore. E cercava di vendermi delle foto di te e lui in atteggiamenti equivoci, oltre che inqualificabili. Ma io e Coco? Sì, tu vestito da poliziotto dei Village People, col manganello, e Coco vestito da Coco. Che più o meno. Infatti, ma tu cosa rispondevi a Coco che voleva venderti ste foto? No, che poteva anche mettersene dove dicevo io. E, quindi... e lui? Lui ha detto, buona idea. E allora il rullino è sparito per sempre. Ah, il rullino, non era un floppy? Come un floppy? Sui giornali scrivono che le foto ricattatorie, i paparazzi le tengono nei floppy. Sì. Cioè, anno 2007 usano la parola floppy, che sul floppy non ci sta nemmeno una foto. Poi Coco scattava sulla sinistra, si liberava dall'avversario, come avrà fatto due sole volte, forse tre nella sua carriera, crossava al centro. E chi c'era lì? Solo che nel sogno poi non c'era più il campo da calcio, capisci, no? E il cross finiva tra le braccia di un gigante triste, e per convincerlo a restituirgli il pallone Coco diventava una ragazzina thailandese. Ma Coco? Sì. Ma scusa, che sogni fai? Ma Drago, i sogni, lo sai, sono il frullato della realtà. Si scambiano un po' i ruoli, tu diventi un altro, l'altro diventa te, e quel che succede, succede. Beh, ma tu conosci Coco? Però a forza di leggere le sue intercettazioni è come se fosse un fratello sfortunato, capito? Coco, povero Coco. Un tuo fratello sfortunato, vuoi dire minorato? No, no. Vuoi dire tipo Minus Abens? Ma no, Minus Abens. Minus Abens! Quello lì è un Minus Abens. Coco, Minus Abens! La carneficina colonialista! Viva Satanas! Indias Malditas! Viene qui! Sta con braccia e daga con cuore! E poi Drago, il sogno continuava con la discesa in politica di Costantino del Grande Fratello. Ma come la discesa in politica? Sì, che per il centrodestra si presentava come antagonista di Sircana. E quindi io scappavo in Francia, a Parigi, in un bilocale di Rue de Tolosé, 18° arrondissement. Ici on travaille avec la mail, hein? On est en France, hein? E poi che cosa succedeva? E poi moi je devenais français. Ah. E mettevo su tutta una boria francese, tutta una cosa così, e poi il sogno finiva là. Finiva lì così, con la boria francese. Ma bien sûr, finiva così qua. La fabbrica di polli. E dalla Francia, Trek, e arrivava un gruppo pittoresco, no? Degli anni 70. e i Gong. Gong. E tu li conosci, Gong? Gong. E no, non li conosci, e vale fa niente. Tanto non li conosce nessuno, perché questi qui, successo, non è che ne hanno avuto molto, eh. Anche se io nel mio negozio, i 33 dei Gong li tenevo tutti, eh. Anche se poi nessuno li chiedeva mai. 33? Eh sì, 33, no? Perché non sai neanche cos'è un 33 giri? 33 trattini. Ma che 33 trattini? 33 giri, no? E i Gong ne facevano un casino, eh. Però poi rimanevano sugli scaffali, eh. E poi, a pensarci adesso, no? Col senno di poi, col senno di adesso, no? Ma chi è che poteva avere un gusto così evoluto da ascoltarsi tutto filato un disco come Camembert Electric, eh? Camembert! Ma no, perché guarda che Gong erano fuori davvero, eh? E quelli erano mezzi francesi e inglesi, ma il loro capo no. E no, lui era australiano, eh? E perché laggiù in Australia, no? A forza di stare tutti capovolti, no? Agli antipodi, e lì vanno, diventano tutti impomati, eh? Perché il leader di Gong si chiamava, e si chiama ancora, eh? David Allen. È scritto David, però. Hai capito, Tare? David! Well, my name is David Allen, and I am speaking to you right now from the planet Gong. Gong. To go to the planet Gong, per andare sul pianeta Gong, devi andare sulla Luna. E la Luna è fatta di camembert. Ma quando arrivi alla Luna, vedi la dea che sta coricata sulla schiena, come sulla copertina di Angel's Egg. Sta coricata sulla schiena e apre le gambe. E allora vedi la sua vagina, la sua micetta, che diventa un lago di camembert. E allora ti tuffi nel lago. E quando ti tuffi, arrivi dall'altra parte, che è la settima dimensione. E nella settima dimensione si può vedere un altro universo. E in questo universo c'è il pianeta Gong. Gong. Vuoi un camembert? Un camembert? Un camembert? Vuoi un camembert? Camembert. Le fromage de la belle France. Vuoi un camembert? Camembert. Attenzione, questo è un messaggio promozionale. Camembert. Fromage érotique. Vuoi un camembert? Camembert. Camembert. Una scelta esclusiva. Camembert. Camembert. Voi cedete a Camembert. Obbedite a Camembert. Credete a Camembert. Sentite Camembert. La fabbrica di polli. No, invece io capo in fabbrica non sogno mai. Io chiudo gli occhi e mi dimentico di esistere. Anch'io farei così. Se fossi in te farei così, perché non vorrei neanche sapere di essere Drago. Quindi... Comunque dai, un sonno nero come la notte. Impossibile, Drago. L'uomo sogna sempre. Io no. Anche, sì, anche tu. Se anche al risveglio poi non ti resta traccia di quel che hai sognato. Tu hai sognato comunque, quindi... Ma a me mi basta l'incubo quotidiano di questa vita nella fabbrica. Non ho bisogno di sognare anche mentre dormo, ci mancherebbe ancora. Shhh, zitto adesso, che è ora di dormire, dai. E che ora è? Mezzanotte circa, mezzanotte qualcosa. Come passa il tempo, eh? Adesso devo continuare il sogno di ieri. Oh, quello che finiva a Parigi, no? E ride a Tolosè. Ma come fai, scusa? Tu sogni a puntate. Non ti devo dire, Drago. Ormai la mia passione per i telefilm ha preso il sopravvento e curo il plot del sogno. Curo il plot, la continuity, i personaggi. Insomma, come fossi un regista, non ce la faccio a fare a meno. Anche quando sogni. Quindi ti stai proprio pollizzando, perché sogni televisivo. Ma va, dai, Drago. Su, dormi, che è meglio anche tu. Che cosa succederà adesso? Il sogno francese di K continuerà a puntare come una serie televisiva? E questo a che cosa porterà? A una francesizzazione della fabbrica? Oh, bien sûr. E allora, puntuali, domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo inqualificabile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai.